La radio cominciò le sue trasmissioni il 3 dicembre dello scorso anno, quindi è passato un anno, ma di questo anno 10 mesi sono stati di silenzio, perché il 2 febbraio è arrivata l'ingiunzione del Ministero delle Comunicazioni di interrompere le trasmissioni perché si disturbava sui 94.2, la nostra frequenza di assegnazione, Radio Subasio, che a Roma possiede praticamente la banda che va dai 93.8 ai 94.5 con una decina di trasmissioni. La causa di questa ordinanza è che noi avevamo il trasmettitore in un posto dove non eravamo in possesso di autorizzazione, ma nella stessa situazione c'era appunto Radio Subasio. Noi abbiamo dovuto chiudere per evitare ulteriori guai, Radio Subasio ha continuato a trasmettere, anzi aggiungendo una testata in più, perché sui 94.2 trasmette Radio Subasio più. Comunque, questo è successo 10 mesi fa. In questi 10 mesi ci sono stati dei contatti continui con il Ministero e con i tecnici del Ministero, si era ipotizzata una nuova proposta per Radio VBS, cioè quella di trovare spazio sui 103.5 della modulazione di frequenza con degli aggiustamenti nella zona. Su questo praticamente il Ministero ha giocato in questi 10 mesi, perché ha assunto una posizione assolutamente dilatoria, nel senso che in ogni riunione veniva promessa una soluzione a distanza di breve tempo. Nel frattempo venivano accolte tutte le richieste delle radio interessate, ma nessuna di quelle richieste che venivano presentate mano a mano dai tecnici e dai dirigenti di Radio BBS veniva accettata. Poi addirittura si è arrivati al 20 settembre, quando in seguito alla presentazione di numerose interrogazioni parlamentari sia al Senato che alla Camera, il sottosegretario Innocenzi ha risposto a nome di Gasparri dicendo che la situazione si sarebbe risolta in breve tempo. Bene, sono passati quasi 3 mesi da quel 22 settembre e anche qui il Ministero ha assunto una posizione dilatoria, rimandando di 15 giorni in 15 giorni. A quel punto abbiamo capito che il problema non è soltanto un problema tecnico o non è un problema tecnico, ma è un problema di volontà politica, nel senso che basterebbe, come dire, la buona parola o la parola autorevole di qualcuno del Ministero delle Comunicazioni per risolvere la situazione, ma questo non è accaduto, per cui abbiamo deciso di ricorrere ancora una volta al sostegno da parte dei parlamentari, e questa volta sotto l'interrogazione presentata il 2 dicembre c'era la firma di ben 65 onorevoli. Primi firmatari sono stati 100 e Violante. Siamo in attesa della risposta orale che il Ministero dovrà dare a questa interrogazione. Nel frattempo abbiamo, come dire, ripreso i contatti con tutti gli organi di informazione per cercare di sollecitare il Ministero a intervenire, e soprattutto cercando di sensibilizzare il mondo dell'informazione alla nostra situazione. Siamo una radio comunitaria, siamo una radio no profit, siamo una radio che vogliamo raccontare la città di Roma, vogliamo raccontare l'Italia attraverso Popolare Network, vogliamo rompere questo mondo dell'informazione conformista che sta pervadendo l'Italia in maniera sempre più massiccia, vogliamo insomma dare la voce realmente a chi non ce l'ha, però purtroppo non possiamo darla perché non ce l'abbiamo neppure noi.